do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Ci siamo io qua in studio e stiamo cantando insieme a Bonnie Tyler. Veramente sono i bei ricordi con questo pezzo. E lei l'ha fatto dal vivo su un show televisivo a Lisbona in Portogallo un paio di settimane fa. Praticamente è molto tempo che lei ci abita, 6 anni che abita in Portogallo, però ancora dice che non riesce a parlare la lingua. Comunque Billboard Music Charts, Fergal Kavanagh on voce, abbiamo Gino Palombo on controls e il nostro numero di SMS è il 335-537-9191, nostro numero di telefono 081-549-9191. Eccoci qua, Sananda Maitreya. Eternity, un super mega hit per lui da poco fa. Allora, dobbiamo adesso a questo punto fare una bella cosa, perché la richiesta, abbiamo deciso di farlo prenotato, e ieri sera ci ha telefonato al 081-549-9191 Alberto, e gli ho promesso che sì, oggi metterei per lui il grande grande Pearl Jam con Last Kiss. This is for you, Alberto. Fun, are we having fun? Of course we're having fun. Ci stiamo divertendo proprio col bel rock di Nickelback. Loro sono americani e si trovano al numero 7 nel the album charts of the Billboard Hot 100. E questo pezzo che abbiamo proposto adesso si intitola How You Remind Me. Allora, al numero 7 tra i brani più suonati in tutta Europa troviamo Jerry McKay. E Jerry McKay suonerà tanti concerti in Inghilterra l'anno prossimo. Aspettiamolo. I say nothing. cantare, sì, fa bene cantare, entra tutto l'ossigeno in polmine e pure va sopra in cervello e così siamo tutti più felici se cantiamo come dicono i Travis, un mega hit per loro dal loro album The Invisible Band e ormai sono diventati un gruppo di gradi di primo classe. E a proposito di gruppi di primo classe o artisti almeno, c'è notizia qua che proprio oggi Britney Spears si è registrato al numero 1 nella classifica del album charts Billboard Album Charts. Intanto ha venduto 745.000 copie del suo nuovo album e Michael Jackson purtroppo è slittato al numero 3. Non è felice per questo Michael Jackson. Comunque ragazzi, tra pochissimo giocheremo il nostro gioco. Sapete che dovete fare? Dovete semplicemente telefonarci al 081 549 9191. Ripeto, 081 549 9191. Potete vincere un bel capolino di Radio Club 91. E a proposito di Britney Spears, perché non ascoltiamo il suo grande pezzo, il suo mega pezzo I'm a Slave for You, tutto remixato in questa versione. Allora a casa tutti a ballare. Music Chart. Questo fine settimana vi troverete avanti a questo pezzo qua, C-Vox, My Imagination, uno dei pezzi più forti dance del momento. Allora siamo arrivati al momento del gioco. Pronto? Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Chi sei? Pronto? No, ma non è possibile che abbiamo perso un'altra chiamata di come ieri sera. Allora, pronto? C'è nessuno in linea? Ma c'era prima, mi pare. Che facciamo? Pronto? Ci sei? Ciao. Ciao, pronto? Come ciao, ti chiami? Buonasera, ciao, sono Stefano. Stefano, buonasera, un po' di paura lì perché ieri pure abbiamo perso un chiamante volevo che succedesse un'altra volta. Da dove ci telefoni? Io da Napoli. Da Napoli, ok. Perfetto, allora credi che sei in grado a vincere questo bel capolino? Ma ci provo, vediamo un poco. Ok, sei abbastanza bravo con le domande sulla musica, sull'attualità? Non lo so, non in modo particolare, comunque non si sa mai. Allora vediamo, praticamente il gioco si fa così, io ho 5 busti davanti a me, sì. E tu devi semplicemente scegliere la lettera che vuoi, A, B, C, D o E, e la domanda che esce è quella che devi rispondere. Può darsi anche che ti facciamo cantare in onda, un po' di tempo che non abbiamo fatto delle persone cantare, quindi vediamo. Allora dammi una lettera tra la A e la E. La lettera C. C, ok, vediamo, apro questo busto qua. Ecco, perfetto. La domanda che esce. Ok, in questo momento Patrizio Rispolo si trova in Sardegna girando un film con Madonna. Io ti voglio chiedere semplicemente in quali telefilm recita Patrizio Rispolo? Patrizio Rispolo. Dai, non è difficile per un napoletano secondo me. Puoi dare qualche suggerimento? Non lo so, è così semplice. Diciamo che è un luogo molto caldo. Aspetta. Mamma! No, Stefano, non puoi chiedere tu, ma... Dai! Chiediamo so a tutto Napoli. Sei tornato? Ci sei? Ci sono. Allora, un luogo caldo, Patrizio Rispolo. Un posto al sole. Un posto al sole, giusto? Alright Stefano, resti in linea e prendiamo le tue dettagli e spieghiamo come prendi questo bel capolino. E noi nel frattempo on Billboard Music Charts andiamo avanti con la bella musica. Oh yeah! Ok, sono un gruppo americano, molto successo per questo pezzo. Speriamo che prima o poi verranno ad esibirsi in Italia, perché non li ho mai visto in concerto, mi farebbe molto piacere. Soprattutto se mi invitano al loro Pacific Coast Party, mi piacciono le feste. Questi sono The Smash Mouth, tutto rock americano. Would You Be Happier, un gruppo irlandese che stanno avendo molto successo non soltanto nella musica ma anche nelle riviste, dove le gente comprano le riviste a posto quando le vedono in copertino per metterli sul muro, perché sono tre bellissime ragazze. Allora, avete progetti per sabato sera? Se no potete andare a Pozzuoli a vedere Neffa, anzi, a fare un grande concerto. Here he is alla fermata. Ok, siamo arrivati al momento di Now and Then, un vecchio brano e poi un versione tutto nuovo. E torniamo nel 1972 e troviamo il grande gruppo America con il loro pezzo Ventura Highway, che poi ha rifatto Janet Jackson quest'anno, però non l'ha chiamato Ventura Highway, invece sono sicuro che lo conoscete. Ascoltate Now and Then. So grand, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture a highway. Try the funky car. Maybe we'll meet at a club and fall so deeply in love. To Radio Club 91, questo è Milli Vanilli and Girl You Know It's True, Billboard Music Charts. My name is Fergal Kavanagh, c'è Gino Palombo on controls. Oggi è il 15 novembre del 2001 e 11 anni fa, cioè nel 1990, il produttore Frank Farian ha ammesso che i Milli Vanilli non hanno cantato sul loro brano e perciò sono dovuti risostituire il Grammy che hanno vinto in quell'anno. Ecco, un bel guai questo, eh? Uno in tutta Europa con questo pezzo potentissima, e infatti ha detto che farà tanti concerti l'anno prossimo e speriamo che verrà da nostra parte, così possiamo vedere Kylie Minogue dal vivo in diretta sul palco. I just can't get you out of my head, magari se fosse nel mio bed, queste cose non si dice. Comunque, un po' di notizie a proposito dei Rolling Stones. Loro dicono che l'anno prossimo andranno in tour per festeggiare il loro 40° anniversario. Si rendono conto che forse saranno troppo vecchi per farlo nel futuro, ma io direi già sono troppo vecchi, però Mick Jagger sempre sa rockare. Here he is. Il brano questo si intitola Still Believing e l'artista è Erran, e uno direbbe magari dalla voce che è americano, però invece ragazzi e viene dalla Danimarca. Wow, questi dalla Scandinavia veramente sanno fare la bella musica, e noi siamo sicuri che questo sarà un grande hit in tutta Europa e speriamo anche in America. E a proposito del hit in America, this is the Billboard Music Charts e al numero 3 on the Hot 100 troviamo Alicia Keys. This is Falling. Sempre un piacere ascoltare i Depeche Mode. Questo si intitola Free Love e viene dal loro ultimo album Exciter, che è un grande successo per loro al momento. E infatti loro hanno suonato 7 giorni fa a Frankfurt presso i MTV Music Awards, e invece di suonare il loro nuovo pezzo hanno deciso di suonare un pezzo di alcuni anni fa, Never Let Me Down. Comunque veramente è una versione speciale, molto molto bello, un gruppo potente. Mi dispiace di non averli visto in concerto quest'estate o quest'ottobre ore quando sono venuti. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati al momento del gioco. Arriva precisamente dopo Afroman. Voi sapete qual è il numero di telefono? 081 549 9191. Sono stato distratto da Afroman. Potete vincere questo cappellino. 081 549 9191. Chiamate adesso. Versione remixato, Because I Got High. That's Afroman, un grande pezzo del momento. Complimenti a lui. Aspettiamo il prossimo pezzo tra poco. Eccoci, siamo arrivati al momento del gioco. Mi pare che questa volta abbiamo qualcuno in linea. Allora, ci sei? Pronto? Pronto, chi sei? Sono Manuela. Buonasera Manuela, grazie di averci chiamato a Club 91 questa sera. Da dove ci telefoni? Da Napoli. Da Napoli, bella città Napoli, eh? Bellissima. Ok, allora sai come funziona questo gioco? Semplicemente io ho 5 buste davanti a me. Tu devi scegliere uno e io ti chiederò una domanda, ti chiederò di cantare, chissà che cosa c'è. Allora, tra la A e la E, comunque il nostro chiamante prima, è Stefano, ha chiesto il numero C e quindi non puoi chiedere quello. Che lettere scegli? A. A. Sì. Ok, vediamo. A e l'apro e vediamo. E deve cantare? No, non devi cantare, peccato. Comunque io voglio sentire i nostri ascoltatori a cantare, no? Comunque il pezzo e la domanda, praticamente in questi giorni abbiamo sentito la felice notizia che George Harrison è uscito dall'ospedale e speriamo che sua malattia di cancro sia guarito. La domanda è semplicemente: per quale gruppo suonava la chitarra George Harrison? Allora, George Harrison, questa è una notizia che ho sentito, i Beatles. Wow, sei grossa! Brava Manuela, allora resti in linea e ti diamo tutti i dettagli per ritirare il tuo cappellino. E nel frattempo, here's Groove Armada. Sono il ragazzo più fortunato al mondo perché in questo spazio Club 91 mi lasciano scegliere il pezzo, la proposta che vi voglio far sentire. E in pratica questo è un pezzo che stavo ascoltando in questi giorni. Ho detto: ma che bello, lo devo proporre al mio pubblico di Club 91. Intanto forse conoscete la voce, è di Morcheeba e l'album si intitola Big Calm e questo brano che abbiamo ascoltato si intitola The Sea. Veramente un bel pezzo e un bel album del 1998, se volete andare a comprarlo. Ok, andando avanti con la musica, al Billboard Music Chart on the Hot 100 al numero 60 troviamo The All Star Lineup with the cover of Marvin Gaye, Here's What's Going On. Devo ringraziare al mio fonico Gino Palombo perché io gli ho detto 10 minuti fa, ho detto: Gino, credo che abbiamo il tempo di mettere solo un paio di brani. E lui ha detto: ah, vuol dire che ce ne andiamo? Io ho detto: sì, è così. E lui ha detto: guarda, la musica non è niente senza di te Fergal, perciò mettiamo il nuovo di Cher. Oh, grazie Gino, sei troppo carino. Non lo so se gli ascoltatori di Club 91 sono d'accordo. Comunque sarò qua di nuovo domani alle ore 21, ultimo appuntamento della settimana. My name is Fergal Kavanagh, vi ricordo Gino Palombo on controls ogni sera dal lunedì a venerdì dalle 21 alle 23, ascoltando the best of chart music e non solo on Billboard Music Charts. E quindi ragazzi, notizie, giochi e pure e anche This Day in Music, quello è che è successo in questo giorno. E non vi dimenticate, verso le 21:55 arriverà Now and Then, un bel cover. Ragazzi, a domani. 91, music and news.